Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis. Quante volte abbiamo sentito dire che le perdite idriche negli acquedotti ammontano al 20, al 30, in qualche caso al 50% della portata. Eppure sembra che, insomma, poco si faccia per porvi rimedio. Il motivo principale è che individuare queste perdite è in effetti molto difficile e intervenire è molto oneroso, soprattutto se per scovare il punto esatto in cui si verifica la perdita è necessario procedere un po' a tentoni. Pensate quante volte ci lamentiamo perché ci sono lavori in corso per strada. Ecco, pensate cosa implica riparare puntualmente tutte le perdite di un acquedotto. E allora è proprio su questo aspetto, quello dell'individuazione precisa delle perdite, che entra in gioco la tecnologia di cui vi parliamo stasera, che si chiama COSMIC e si fonda, e questo è un aspetto molto interessante, sulla rilevazione dell'interazione fra l'acqua eventualmente presente nel terreno e alcuni particolari raggi cosmici. Ne parliamo con Riccardo Marchetto, che è cofondatore e amministratore della Neptune SRL, un'azienda che ha visto la luce qualche anno fa dal Business Innovation Center del Lazio, ormai più che una startup è appunto un'impresa avviata. E allora buonasera Riccardo Marchetto. Buonasera dottor Melis, ben ritrovati dopo 4-5 anni. Dopo 4 anni, famosa puntata. E infatti, beh, famosa per voi, non so se sia così famosa per gli ascoltatori, ma noi ci eravamo sentiti perché voi già 4 anni fa avevate messo appunto un sistema per individuare perdite idriche dallo spazio usando i satelliti e usando una tecnologia radar, che già rappresentava una novità rispetto alla tecnica standard per cercare le perdite, che è quale? È vero, la tecnica standard si basa sull'ascolto acustico della perdita idrica, quindi appoggiare un microfono opportunamente tarato a contatto col tubo o sull'asfalto sopra di esso e sentire il rumore della perdita. Il problema sono i tempi, una roba esattamente questo, su varie frequenze. Il problema è appunto l'onerosità in termini di tempo che richiede questa tecnica, che ti permette di controllare con due operatori dai 5 ai 7 km al giorno su reti lunghe mediamente 10.000 km. 10.000 km, poi basta un po' di rumore per complicare molto le cose. Voi avevate scelto questo approccio dallo spazio, che funziona bene in campagna ma funziona meno bene nelle città, perché queste onde radio hanno problemi quando agiscono su un territorio urbano. Allora, veniamo alla tecnologia che avete sviluppato basata sui raggi cosmici. Allora, prima di tutto ricordaci brevemente che cosa sono. Detto in termini molto semplici, sono particelle altamente energetiche che provengono dallo spazio, da ogni dove e da ogni quando, vagano nello spazio e man mano ci colpiscono. Colpiscono protoni, elettroni, neutroni, muoni, queste particelle che nascono nei fenomeni più violenti, no? Che accadono nello spazio, quando per esempio esplode una stella, e arrivano a frotte sulla Terra. Esattamente, oltre a raggi alfa, beta, gamma, eccetera. Certo. Fortunatamente questa alta energia va ad interagire con la nostra atmosfera, la quale riesce a ridurre l'energia di questi raggi cosmici. A noi arriva una doccia chiamata doccia secondaria di raggi cosmici, circa 10.000 raggi cosmici per metro quadro al minuto. E sono di vario tipo queste particelle, e tra queste ci sono i neutroni, che sono particelle, sappiamo, stanno nel nucleo dell'atomo e sono neutre elettricamente, quindi non vengono deviate da campi elettrici o campi magnetici. Voi usate queste. Come? Come esatto, noi utilizziamo questa particella, la quale si sposa benissimo con il nostro obiettivo, quello di individuare la perdita idrica, innanzitutto appunto perché non ha alcuna interferenza con i materiali, quindi è trasparente. Penetrano i materiali molto facilmente. Li attraversano addirittura, e l'unico elemento che riesce a fermarli è l'idrogeno, perché l'atomo di idrogeno ha proprio un effetto moderante o addirittura assorbente sul neutrone stesso. Sui neutroni, e tanto che proprio l'acqua è la principale candidata per fare, diciamo, da schermo ai neutroni anche nelle future navicelle spaziali. E allora, cari ascoltatori, il principio non è poi così complicato da capire. Immaginate questi neutroni come delle palline molto piccole e leggere che arrivano a grande velocità. La maggior parte penetrano in profondità nel terreno passando tra un atomo e l'altro, ma alcune centrano proprio il nucleo di un atomo. Se questo nucleo è quello di un atomo pesante, rimbalzano indietro, mentre quando colpiscono un nucleo di idrogeno, che anche lui è molto leggero, vengono assorbite. E qui che succede? Noi dobbiamo immaginarci che a terra vediamo come ci fosse una nebbiolina, chiamiamola così, dove è data appunto dal rimbalzo di questi neutroni, e noi col nostro analizzatore di neutroni andiamo a verificare lungo la rete idrica quanti neutroni liberi presenti sono a livello del suolo. Più ce ne sono e meno perdite idriche ci sono. Meno neutroni ci sono, più è probabile che ci sia una perdita idrica, giusto? Esattamente, il numero dei neutroni è inversamente proporzionale alla quantità di idrogeno, quindi dove c'è una perdita idrica c'è tanta acqua, il terreno è impregnato d'acqua, quindi il numero di neutroni viene praticamente azzerato perché assorbito da tutto l'idrogeno presente nella massa d'acqua. Allora, qual è il vantaggio principale ad utilizzare questa tecnologia basata sui raggi cosmici? Il primo vantaggio è l'assenza di contatto con il tubo o con l'asfalto. Noi prendiamo lo strumento, lo buttiamo in baule e partiamo. Se con l'altra tecnica, quella standard, si controllano dai 5 ai 7 km al giorno con due operatori, noi al momento con lo strumento che è appena uscito dalla fase di prototipazione siamo intorno ai 15-20 km all'ora. Quindi il nostro target giornaliero è ben oltre i 100 km al giorno. Cioè lo caricate in macchina e viaggiate lungo la strada, e mentre viaggiate fate questa rilevazione. Esattamente, siccome abbiamo detto che i neutroni non interagiscono con alcun materiale eccetto appunto l'idrogeno, noi possiamo caricare in qualsiasi parte della macchina e iniziamo il nostro viaggio lungo le reti idriche. E nessun rumore li disturba, nessun altro, perché questi neutroni se ne fregano di tutto tranne che degli atomi di idrogeno fondamentalmente. Proprio dell'idrogeno. Il secondo vantaggio risiede nella sua alta trasportabilità, e dalla quale abbiamo ricavato due versioni. Una versione real time, che quindi immaginiamo questo strumento, lo mettiamo a bordo del mezzo dell'acquedotto, dove gli operatori iniziano a girare e su un'app sul telefono vedono immediatamente tramite un alert dove vi è questo calo di neutroni, quindi vuol dire alta presenza di idrogeno. La seconda versione è quella più, chiamiamolo così, eco-friendly, in quanto andiamo a montare lo strumento, abbiamo individuato il camioncino dei rifiuti, in quanto i rifiuti sono le stesse utenze della rete idrica, e questo abbassa notevolmente i costi, creando una mappatura continua della rete idrica. In quel caso lì vedremo già una perdita nel suo nascere. Va bene, allora grazie Riccardo Marchetto, in bocca al lupo. Grazie, alla prossima idea allora. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima idea, a domani. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.